Partivamo presto, quando l'alba era ancora vestita di madreperla, dal grigio lucente del mare al morbido rosa del cielo. Avanzando nel mondo iridescente, come racchiuso tra le valve di una conchiglia, vedevamo la nebbiolina dissolversi a metà delle colline e rimanervi sospesa, piatta e bianca fra l'acqua e il cielo, come in una stampa giapponese. Risalivamo i sentieri fra le colline con la nebbia che ci accarezzava il viso, facendoci strada fra i fitti cespugli di ginestra e calpestando frammenti di lava. A mezzogiorno sedevamo sui massi caldi di sole dai fianchi muschiati o giacevamo supini nell'erba alta e azzurrina, accanto a un torrentello quasi asciutto che solcava il pendio con il franare dei suoi ciottoli. Una lieve brezza giocherellava con noi, trascinandosi dietro sul sentiero qualche rara foglia frusciante e rugginosa. Camminavo sempre dietro Mark, poiché il suo sguardo mi turbava troppo. Lo vedevo al centro del mondo, così snello e aggraziato nel suo modo di camminare e così vulnerabile come tutto ciò che è bello. Sentendo i miei occhi su di sé, egli mi tendeva la mano e a volte mi si fermava per voltarsi. E allora io rimanevo immobile, mordendomi le labbra, le orecchie ronzanti, inerme, come una ragazzina al suo primo amore. Non incontravamo mai nessuno. Vagabondavamo per tutto il giorno, rinchiusi nel nostro mondo di sogno, armati di due mele, di una bottiglietta di cognac e di un paio di libri. Indugiavamo sui pendii assolati, guardando l'isola che giaceva felice entro le braccia tranquille del mare. Le nuvole errabonde che trascinavano sull'acqua le loro obbedienti ombre purpure, il giorno che percorreva il suo cammino, il sole battagliero che appiccava il suo grandioso incendio finale, la gola stretta. Seguivamo l'avanzare delle falci del crepuscolo che rastrellavano dalla terra oro, smeraldi e turchesi, e il primo occhieggiare delle stelle numerose e fredde, simili ad anonime teste di spettatori alla balconata di un teatro. Nella folta erba delle cavità cercavamo le ultime orchidee dalle labbra violacee e le primule arundina dalla ricca gamma fra l'ocra e il marrone. Sopra di noi le bauhinia erano in fiore, insieme al tempo stesso, e lasciavano penzolare i loro lunghi baccelli verdi incoronati dalle circonvoluzioni rosa e cremisi dei petali. Le ultime rondini le attraversavano e la fiamma del tramonto, sopraffacendo il loro splendore scarlatto, faceva spiccare da ogni ramoscello piumato i gonfi astucci di lucenti semi neri. Mark amava raccoglierli e versare le piccole vite d'ebano nel cavo della mia mano. Io osservavo i semi fino a quando raggiungevamo un sentiero di pietra e allora gettavo a terra entrambe le manciate, l'una dopo l'altra. E il rumore dei chicchi contro la pietra ci dava immenso piacere. Ovunque sui pendii le luminose gordonie gialle formavano grappoli di stelle fra il fogliame fitto e lucente. L'ibisco ondeggiava le sue siepi cariche ricordando il Natale. Camellie pallide, come bianche fiamme, ricordavano il mattino che costituiva l'intera giornata della loro incongrua primavera. Simili a cere ed altere damigelle in file ben ordinate, i rosei melastoma sembravano fuori posto nel dolce disordine autunnale. Nell'alto cielo sereno di mezzogiorno si vedevano volare alcuni aquiloni e di tanto in tanto un francolino planava lentamente. Un giorno vedemmo anche un'aquila marina dalle ali rigate di bianco. Nel sentiero degli amanti, uccelli multicolori si levavano in precipitoso volo dagli alberi della canfora, oppure ebri di sole si assalivano a vicenda con grande furia d'ali. Un mattino, dopo la pioggia, ci fu dato di ammirare un timido e bellissimo cervo, col muso tumido e il pelo lisciato dall'acqua, che avanzava delicatamente, tastando il sentiero con zoccolo esitante. E gli orecchi ritti simili a foglie. La catin fulica copriva Hong Kong con i suoi innumerevoli milioni. Ad ogni passo incontravamo queste voraci chiocciole africane, ve ne erano di tutte le dimensioni e spesso le trovavamo circondate da orde brulicanti di affamate formiche rosse. Nelle giornate più torride i loro corpi si scioglievano al sole e le conchiglie a spirale, appiccicandosi alla vischiosa materia in decomposizione, aderivano alle rocce calde di sole. Di notte i nostri piedi calpestavano dozzine di questi ermafroditi onnivori dalle conchiglie sottili e friabili. Non è Mrs. Palmer Jones che sostiene che la razza umana morirà di fame entro 50 anni? Chiese Mark. Secondo me moriremo invece per sovrappopolazione, noi e le alcatine. E tutto perché la tua nazione, gastronomicamente tanto geniale, non ha ancora trovato il modo di rendere commestibili queste lumache. Hong Kong, circondata dal mare e dal cielo, assomiglia a un uccello. Da ottobre a gennaio, quando il violento splendore dell'estate si calma in una lucida, tranquilla luminosità, Hong Kong risplende di tremule luci diffuse, si pavoneggia e mette in mostra smeraldi, zaffiri, cobalto e giade come una coda di pavone nel sole. E pare strano di non imbattersi in uno di questi uccelli sagaci che, scendendo delicatamente un sentiero di collina, sventagli bruscamente la coda verso il cielo, simile ad un mercante indiano che svolga la sua pezza di broccato. Soltanto il martin pescatore sfiora l'acqua delle vasche. Volteggia attraverso le foglie smeraldine della foresta e scompare dietro la cresta di una collina. Cerchiamo di essere uccelli nella nostra prossima vita, Su Yen, disse Mark, seguendo il volo del martin pescatore dall'erba su cui eravamo sdraiati. Sì, martin pescatori, sono così belli. Vivono sospesi fra l'acqua e la terra e portano il cielo e il mare sul dorso. E sono di una fedeltà non comune. Bisogna che mi istruisca sulle abitudini coniugali del martin pescatore, disse Mark, ma secondo le leggi della reincarnazione, nella prossima vita tu dovrai essere maschio e io femmina. No, non voglio, mi rifiuto di essere maschio, voglio essere ancora femmina e per sempre. Prima di conoscerti avevo sempre desiderato di essere uomo, ma siccome nella prossima vita non potrai esserci che tu, voglio essere donna di reincarnazione in reincarnazione. Anche a me piacerebbe dire per sempre, rispose Mark. Ma tu non lo permetti perché sostieni che sono parole inventate dagli sciocchi e credute dai deboli di mente. E tuttavia, non siamo forse un po' tutti deboli di mente se sentiamo il bisogno di crederci immortali? Non posso fare a meno di pensare a Shen Fu e a Yun. Ahimè, dice Shen Fu, l'amica del mio cuore se n'è andata e non abbiamo avuto che 23 anni di vita insieme. Che pretese, Su Yen. E che fortuna. Io non riesco ad immaginarmi vivo fra 2 anni e tantomeno fra 10. Quanto tempo credi che ci verrà concesso in questa vita? L'astrologo ci ha promesso 8 anni. 8 anni in questa vita, Mark. Non meno di 8. Non dobbiamo lamentarci, ti pare? Ci accontenteremo di 8, dato che non possiamo averne di più, disse Mark. Ma devo passarli con te. Io penserò a questa vita e tu disporrai ogni cosa per la prossima. Voglio essere legato a te di reincarnazione in reincarnazione. Sta bene, lascia fare a me. Promisi, sfiorando con le labbra il palmo della sua mano. Saremo martin pescatori. Vivremo insieme e faremo in modo di morire insieme. Ciò rese Mark molto felice. Sono contento che tu non abbia scelto l'anatra selvatica, tanto spesso citata nella poesia cinese come simbolo d'amore. Non mi sarebbe piaciuto affatto perché, sebbene il maschio sia un arcobaleno di colori, la femmina non è che una piccola cosa misera e grigia. E tu saresti stata così, visto che insisti per rimanere femmina. Ma tu saresti stato uno splendido maschio, con occhi neri, pagliuzzati d'oro e una bella cresta sul capo, e io mi struggerei di amore per te nella nuova vita. come in questa. Ma Mark non voleva sentirne parlare. Non era elisabettiano e non riusciva a immaginarsi vestito di rosa e porpora, di azzurro e oro. La nostra scelta definitiva cadde quindi sul Martin Pescatore e lo cercavamo ovunque. E ogni qualvolta ne vedevamo uno, ci guardavamo estatici, considerandolo un buon presagio per noi. Mark mi mandò un'illustrazione ritagliata da un libro di bambini sui Martin Pescatori. Rappresentava un cielo azzurro e un ruscello dalle rive verdi. Due Martin Pescatori lo attraversavano, volando fianco a fianco. Conservai persino il foglietto di cartone che Mark aveva messo nella busta affinché non si sciupasse. Ora l'illustrazione è appesa sulla parete che mi sta di fronte e dallo stesso libro ne ho ritagliata un'altra. È sera e gli alberi, carichi di tristezza, si chinano sul ruscello che un solo piccolo Martin Pescatore attraversa in fretta, volando verso casa. Per continuare a vivere bisogna essere sciocchi di tanto in tanto. Bisogna riandare a ricordi che in momenti di maggiore lucidità esalano un pungente odore di mummia. Bisogna toccare le vecchie lettere ingiallite, deviare nei fronzoli del sentimento l'ardore dell'amore al fine di magnificare questa lieve beffarda parola. Cara, mi disse, devo lasciarti. Non aggiunse altro. A distanza sentivo il calore del suo corpo, il suo sguardo scrutava il crepuscolo appannato e un po' equivoco che fasciava le colline. Desidero andarmene un po' a zonzo per conto mio. Ragazzino dai ribelli capelli lucenti che destinava a lontani e gloriosi reami l'altra parte di un pomeriggio dorato, desideroso di possedersi e di staccarsi da tutto, specialmente dall'amore, completamente padrone dei suoi sogni, anelante a irraggiungibili montagne ammantate di neve, naturalmente doveva andare. D'un tratto compresi quale sarebbe stata la sofferenza di una donna che avesse tentato di costringerlo a vivere con lei, a svegliarsi con lei al mattino e a ritornare da lei alla sera. Cielo, mi dissi, devo imparare ad amarlo molto di più per poterlo rendere libero. Era un vero genio nello scomparire, come un bambino sapeva dileguarsi senza lasciare traccia, dissolvendosi come una nuvola. Già altre volte glielo avevo visto fare e provai pietà per la donna, per qualsiasi donna che avesse tentato di legarlo con promesse e accomodamenti. Per la donna affamata di sicurezza, desiderosa di un futuro stabilizzato, formulato, che avesse rinunciato all'oggi per il domani. Naturalmente egli avrebbe mantenuto le promesse, ma la sua anima sarebbe andata lontana, lasciandosi indietro una conchiglia vuota. Se ne sarebbe andato, perduto, nel momento stesso dell'assentimento, svanito nell'attimo dello scatto dell'ultimo lucchetto. Mark poteva essere legato soltanto dalla libertà, null'altro poteva trattenerlo. Sedetti lentamente a terra. Era molto importante e dovevo imparare tutto da capo. Lo sentivo fremere lievemente del desiderio di essere lontano, di andarsene anche da me. E così, poiché lo amavo, appoggiai umilmente la fronte contro le sue ginocchia, sfiorandolo appena. Oh, amor mio, dissi, come sarà bello aspettarti. Se lo desideri, ti aspetterò per sempre nel mio cuore, perché l'attesa è gioiosa quando ha te come fine. Vai dove vuoi, vattene lontano, non mi importa, non potrai mai farmi del male, poiché il mondo che mi lasci è sempre pieno di te. Dopo qualche istante anche egli sedette e accese la pipa, assurdamente rassicurato, di nuovo padrone della sua volontà. Fumò la pipa accanto a me, nel dolce silenzio. Le cortine del crepuscolo ci avvolsero e, raggrinzita dalla morte, una foglia gialla portata dalla brezza venne a sedersi nel mio grembo. Riprendemmo a camminare. Improvvisa, come uno scoppio di risa, La luna apparve da dietro una collina. Mark mi prese la mano e la tenne nella sua. Non potendo trattenere il giorno, a notte scendevamo dalle colline, rassegnati a rientrare nell'altro mondo. Le strade erano spesso rauche di grosse automobili, i cui fari, intersecando l'oscurità, ci colpivano violentemente, cogliendoci in fallo come malfattori. C'erano fiori sui miei capelli e graffi sulle mie gambe quando salivamo i gradini del Bay Hotel e dai nostri vagabondaggi riportavamo bracciate di foglie rosse e brune e bacche nere, scarlatte e dorate. Ai nostri amici dicevamo gravemente che l'autunno camminava sulle colline. Nessuno comprendeva l'allusione all'infuori di Padre Law. La gente ordinata e per bene, che sedeva ai puliti tavolini di vimini, fra le palme in vaso e i camerieri impeccabili, ci guardava con disapprovazione. Eravamo un po' pazzi. Non hai certo l'aspetto di un competente giornalista, sai? Dicevo a Mark. I tuoi colleghi hanno un'espressione lamentosa e preoccupata. I guai del mondo pesano sulle loro spalle e l'insonnia scava rughe sulla loro fronte. E tu non hai certo l'aspetto di un bravo medico di 32 anni, mi rispondeva Mark. Quasi mi vien voglia di dire a quelli che ci guardano, vi prego, scusateci, siamo innamorati. In quel momento, dimostri 16 anni e hai il tuo viso di dopo l'amore. E allora fuggivo a lavarmi il volto mentre Mark ordinava la cena per due. In noi si risvegliavano i primitivi istinti della specie. Le nostre coscienze civilizzate meditavano spesso sulla natura assoluta del sentimento che ci pervadeva, ma altri elementi sorgevano. Tutto quello che avveniva nel nostro mondo dei sensi ci coinvolgeva in un modo o nell'altro. Che lo volessimo o no, la forma di una collina, la direzione di una nuvola, la caduta di una foglia, il richiamo improvviso di un rigogolo, il passaggio di un'ombra, tutto incideva sul destino che non potevamo forgiarci con le nostre mani, poiché tutto era vivo, persino le pietre che calpestavamo. Presagi, portenti, simboli, spiriti benefici o malefici, di tutto eravamo consapevoli e a tutto credevamo a metà. Per propiziarceli, invocavamo quegli esseri soprannaturali che vagavano sulla spiaggia, fra le tombe e nei boschi, spiriti dell'acqua nei torrenti, semi disseccati all'ombra della casuarina, spiriti della terra, foglie, fiori, alberi e radici. Rispettavamo le loro invisibili manifestazioni e praticavamo spontaneamente una specie di commovente culto. Seppellivamo i fiori e andavamo a ripescare gli scarafaggi dai canali per impedir loro di annegare. Un giorno salvammo una lucertola e rimanemmo estatici a osservare le fantastiche contorsioni della sua coda staccata, convinti che avessero un significato particolare. Ricordo una sera, allorché un vento freddo si abbatté improvviso sulla collina, riluttanti ci alzammo dall'erba e io cercai i due pettini rossi con cui mi appuntavo i capelli. Eccone uno. Rotto, disse Mark. Dobbiamo lasciarlo allo spirito della collina. Scavò un buco per seppellirvi i frammenti e trovò subito l'altro. Ne abbiamo salvato uno dal demone della collina, disse scherzosamente. Ma io lo spezzai in due e lo seppellii col primo. Chi eravamo noi per strappare un oggetto alla terra benigna che aveva accolto il nostro amore? Di sera andavamo spesso nel quartiere cinese di Wansai. Là, su di uno spiazzo aperto fra il riflesso delle lampade a petrolio, astrologi e indovini, acrobati e guaritori di verruche, prestigiatori e venditori, ambulanti, mezzani, ladri, prostitute, bambini e profughi, ricchi e poveri, giravano fra i traballanti tavoli a trespoli su cui stavano appesi calendari dei giorni fausti e infausti, mappe del firmamento, i grandi disegni di mani e di volti eseguiti in rosa e nero su tela. Seguivamo la folla da un ciarlatano all'altro, facendoci predire il futuro per poche monete, e ascoltavamo felici ogni sorta di meravigliose menzogne. Un giorno ci fermammo a osservare le cicatrici lasciate da una malattia sulle foglie di una pianta. Una donna giapponese prenderebbe questi rami torturati per disporli meravigliosamente insieme ad alcuni fiori, disse Mark. Quelle vesciche, quei gonfiori e quelle cicatrici variegate farebbero l'ispirazione di un artista. Pustole di un rosso fiammante, croste di oro verde, ulcere, lebbrose circondate dal livido bubbone della cancrena. E il pallido orrore del sottoventre. Segui il lento progresso di quel bruco chiazzato su per il ramo e guarda come si arresta improvvisamente, rizzando la testa. Osserva come si contorce e come, intuendo qualcosa di orribile, fugge dalla dolce corruzione in una sinistra ritirata, resa precipitosa e confusa dal movimento dei suoi numerosi cuscinetti pelosi. È come la passione, la pericolosa bellezza che mi invade, sformandomi ed esercitando su di me la sua volontà al pari della malattia su quella foglia, dissi. Ricordo l'incubazione della mia malattia. Quando non potevo mangiare né dormire, consumata di febbre per te e odiandomi per esserne caduta a preda. Poco per volta il terrore diminuì con la mia fame di te, la tristezza divenne rassegnazione e la mia gioia cominciò a sbocciare. Poi ci fu il ritorno alla mia fanciullezza, l'analisi nel passato per costringere il futuro. La ricerca del gesto appropriato che potesse salvare il domani dal disastro. E ora, avendo ormai superato tutte queste fasi e profondamente ammalata, non so più resistere, né preoccuparmi, né essere triste, qualunque cosa accada ora. Non potrò mai essere troppo triste, poiché la tristezza sarebbe ingratitudine, dopo avere avuto tanto. Fin da ragazzo pensavo che un giorno tutte le cose sarebbero diventate vive, acquistando un loro significato, disse Mark. Non soltanto quelle che possiamo vedere, sentire e chiamare per nome, ma anche quelle che vivono nell'oscurità perpetua, poiché ben piccola sarebbe la nostra parte dell'universo se dovessimo limitarci a quello che è visibile. Sono sempre stato dominato da un lieve timore che potremmo chiamare impotenza emotiva, perché quello che sembrava commuovere gli altri nel mondo prescritto e convenzionale mi lasciava freddo e neutrale. È un paradosso, poiché pur rimpiangendo la mia incapacità di sentire profondamente, evitavo con cura ogni occasione di sconvolgimento spirituale. Ho avuto evasioni meravigliose e soddisfacenti, al sicuro dagli oltraggi della volgarità. Sapevo rimanere piacevolmente tranquillo e distaccato. Mie erano le montagne serene e le giungle intricate, mio il calmo deserto e il pericolo. Il mio corpo poteva vagare fra pallottole convenzionalmente mortali, mentre il mio cuore meditava sul viaggio del cuore in mezzo al tumulto dei massacri e alla cacofonia delle guerre. Come tutti gli uomini, ero lieto e spiacente al tempo stesso di questo immacolato scudo di compostezza, di questo spassionato equilibrio dell'anima, consapevole con la mente, insensibile nel ventre, aridità spirituale, vuoto interiore riverberante soltanto l'eco del suo stesso silenzio. Eri sperduto, dissi. Questa è l'epoca della grande delusione normale, in cui non osiamo più chiamarci peccatori, egoisti e meschini. Tutti vogliamo essere normali, perché oggi normalità è sinonimo di bene. Male si chiamano le forti passioni personali, scomode e antisociali. Le passioni ci pongono fuori dal gregge che può essere stimolato soltanto a una frenesia collettiva, a una disciplinata reazione di panico, di odio, di giusta indignazione. Questa è l'era della consacrazione in massa all'astrazione mal compresa, santificata dalla verbosità dei giornali e dalla maggioranza dei voti. È l'epoca dell'uomo qualunque, la cui vita privata osa soltanto conformarsi a un minimo di moderata virtù, di moderati difetti, e la cui meta spirituale è la comodità e la sicurezza. Oggi è diventato ridicolo morire per amore. L'amore non è che un ragionevole compromesso, una democrazia protetta dal controllo delle nascite. È ormai pressoché impossibile vivere per se stessi, poiché non osiamo più lasciarci commuovere per timore di essere ingannati e siamo terrorizzati dalla dannazione eterna. Sì, credo davvero che tu fossi sperduto. Mi ritenevo incapace di calore e di profondità, disse Mark. Ero come cenere fredda, attraversata da uno squallido vento di avvenimenti che mi lasciava intatto, non ingannato da verità diverse e numerose quanto gli uomini che le propugnavano. Dubbioso circa l'eroismo delle sante cause, consapevole della presunzione che spinge gli uomini ad estendersi in errori inumani. Eppure, per tutta la mia vita, pur rifuggendovi, ho desiderato qualcosa che andasse oltre la funzione della realtà, oltre la speciosa solidità di questo mondo costruito sulla roccia, una fiamma costante, appassionata, ed ora è accaduto. E grazie a una cosa tanto piccola, assurdamente piccola, avrebbe potuto essere un'altra donna, o un uomo, o anche una causa. Forse, ma è avvenuto fra noi due, grazie a questo meraviglioso e delicato equilibrio che non è soltanto sesso, né soltanto amore. Tutto è diventato vivo e ogni istante è una stella cadente. Non accadrà mai più, dissi, mai più, e non so quello che sarà di noi. Dopo l'infezione la foglia non è più la stessa. Non so quali possano essere le intenzioni di Dio verso di noi, se vi è un Dio e se veramente si interessa a noi. Egli ci ha usato l'uno per l'altra come un trampolino, facendoci fare un lungo e vasto salto nella vita, e dalla vita non si può tornare indietro. A ogni momento, con cuore rapito, scopriamo l'incredibile successione di miracoli che il divino opera all'infinito. Non possiamo arrestare l'eterna evoluzione insostanziale. Esigere una conclusione, determinarne il nome, presupporne una fine. Le conclusioni non sono che ignoranza, che si ferma sul sentiero di una minore ignoranza. E anche la nostra piccola intelligenza sa che la parola finale non viene mai pronunciata, non c'è mai una fine, ma soltanto una via. Non avendo imparato il tuo mistico linguaggio taoista, cercherò di esprimere il concetto nella mia versione anglicana, disse Mark. Io ringrazio il divino ora e sempre e non chiedo altro, non esiste altro, e anche se il futuro farà in modo di dividerci, io gli sarò sempre grato per tutta la vita. Quell'autunno pregammo di poterci amare in maniera sempre più perfetta, di poterci accontentare di quello che avevamo, di non esigere nulla dal lontano futuro e di non stringere con troppa avidità quello che ci veniva dato, poiché anche se il futuro ci fosse stato tolto e il presente ci avesse trattato duramente, già possedevamo abbastanza, ci sembrava che le nostre gioie e i nostri dolori, i nostri sacrifici e le nostre decisioni, i nostri errori, le nostre virtù e tutto il passato fossero come il peso attaccato all'estremità di un filo che ci portava direttamente l'uno verso l'altra, che la nostra vita non avesse altro scopo che il momento di fusione che stavamo vivendo e nel quale scoprivamo noi stessi e il divino. Davanti a questo stavamo ignudi e tuttavia non provavamo vergogna. Sebbene astemi, non eravamo certo sobri, sebbene ci controllassimo, non ci usavamo certo con moderazione. Non sciupati da precedenti fornicazioni desultorie, le difficoltà accrescevano il nostro ardore. La consapevolezza di non poter far nulla per assicurarci il futuro ci rendeva maggiormente prezioso il presente e l'accettazione della rinuncia ultima ci infondeva un disperato fervore, un acharnement silencieux et total, che faceva dell'amore un tirocinio della morte. Non cercavamo comode scappatoie, non cercavamo di discolparci nel nome dell'amore, di giustificarci con ragioni plausibili. Nessuno dei due credeva nella blanda copulazione casuale. Severi quanto il più stretto dei puritani, credevamo nella castità, senza compromessi. Non eravamo moderni, favorevoli all'amore come necessità igienica, come svago sanitario. Il divino fa spesso delle nostre virtù il punto di partenza del male che è nostro destino perpetrare. La nostra stessa continenza costituiva la forte e fresca sorgente da cui attingevamo la tremenda esultanza di vita, la risurrezione di noi stessi che il nostro peccato operava. A differenza del servo pigro, non eravamo colpevoli di omissione, ma non credo che potessimo ritenerci santificati dall'atto che la moralità cristiana condanna tanto decisamente, essendo peccato più accessibile che non quelli dello spirito. Soltanto attraverso il peccato si può giungere alla redenzione. Attraverso il peccato imparammo a conoscerci e ad essere vivi. Fummo grati alla vita e ringraziammo il divino. Soltanto così potemmo essere salvi. Il divino è più saggio e più misericordioso delle sue creature. Il bene e il male sono nelle sue mani, forze equivalenti, utili al suo scopo, reciprocamente necessarie come l'andare e venire del respiro. Il divino ci ha fatto materia e spirito affinché attraverso l'una noi possiamo giungere a conoscere l'altro. Non esiste spiritualità degna di tale nome che non sia prima stata provata nella carne. Così fu per noi. Il nostro peccato ci procurò infinita gioia e infinito dolore, e attraverso di esso il divino, nella sua misericordia, diede la redenzione alle nostre anime.